riesci a sentire a Domenico Cardanetto. Domenico, buonasera, ben sentito, buon trabacco. Come selettività, come modulazione. Santa Nago, fate cerre 7.000, fatelo conto come ti sono arrivato in denocchio. Quante la fa cazzo? Io ti sento nelle 4.30, ho commutato l'antenna qua e ti sento lo stesso nelle 4.30 senza antenna. Ma ho sollevato, ho cambiato, aspetta che... Andiamo, ecco qua. 40 volte monolati, così no, non si offende nessuno, visto che siamo tutti vicino. Ho provato a vedere se sento meglio a Pinuccio, però voglio rilanciare un secondo a Daniele, vediamo se è partito Daniele. Buonasera, sta arrivando sotto autonomia, vi saluto tutti, ben sentiti Perugia e salutami con un brutto attraverso, e dire di cosa si riporta quella cosa che mi ha lasciato vuota, dire così che la capisce qui. A domani e proseguo di giornata. Proprio, io ho fatto le prove, me l'hanno dato a provare. è come se pigli un baracchino rumoroso e poi lo metti con lo square, c'è la stessa cosa. Un 140 è un baracchino a sintonia continua, completissimo, con tutto, però non ha i filtri, non ha niente, quindi però è un apparato che io ho sempre detto la mia, il mio parere, continuo a ripeterlo fino a quando Gesù Cristo mi lascia. Io per comprare un baracchino da 300 euro, 400 euro, preferisco comprare un 140. Su questo non ci piove, parlo di baracchino. Se poi voglio una cosa più selettiva, allora vado sui 440, sui 430, su un Lico, insomma. Allora il materiale è un'altra cosa, ma se io lo devo comprare oggi come oggi, decido di comprare un baracchino per fare solo 27, che ne ho tra l'altro, perché posso anziché usare questo, posso usare il 7000 su questo altro, il 6S, cioè ce ne ho dei baracchini, no? Non è quello proprio, baracchini. Però preferisco sempre usare un 140, mi dà più affidabilità, uno per la potenza, per la ricezione e per tutto, per i colpi soprattutto, perché a livello cittadino è meglio usare sempre uno di quelli, intanto non è che quello che si dice è detto per me, riguarda me, te e tutti quanti, a Sassari i baracchini colorati non ce n'è, quindi per rischiare il tutto per tutto rischio bene, cosa me ne affutti, non è che se vuoi usare un apparato che non è omologato preferisco usare un 140 anziché usare un baracchino non omologato, intanto per non omologato preferisco avere più selettività e più cose. La stessa cosa vale per me, la stessa cosa vale per gli altri, non c'è nessun problema perché è così, la legge vuole per tutti, non è che si discute lì. Avanti a tu. Pagata, è così, si conferma il radio. Vediamo un po' se c'è Pinuccetto. No, no, Pinuccetto c'ha tante di quelle bombardamenti che non ci sente, o magari ci sente, ma ci sentirà poco. Ripete la roba. E tu qualche, da quando me ne sono andato io questa primavera che ho sentito qua in stazione, prima dell'estate, è cambiato qualcosa? Sempre lo stesso baracchino, cioè? No, sempre tutto uguale, tutto lo stesso, non ho cambiato niente. Claudio, tu che antenna stai utilizzando in questo momento? Io ho la Mantova 1, ho messo la Mantova 1 nuova, col cavo nuovo, tutto nuovo. Adesso la prossima settimana ho 4 giorni di ferie. Se non c'è vento, perché per me può essere anche nuvoloso, ma è importante che non ci sia vento, salgo su e faccio le altre due calate, perché devo montare la verticale 5 bande e un'altra bibanda della Diamond, che è quella che ho preso da Salvatore Maestrale. Quella c'è da Salvatore, che era da me, e poi vabbè, l'ho passato, te lo dico, ma gli ho ritirato un po' di roba io. E chiudo la canaletta, vabbè, perché poi inizia il tempo brutto e non ho tempo, anzi, secondo la siliconata poi non c'è tempo da asciugare. E chiudo la canaletta, il buco che ho fatto per entrare i cavi dalla canaletta che c'è in facciata all'interno del piazzale, capito? I cavi sono tutti sotto canale. E qui devo mettere il tappo, una volta che però ho finito di fare le calate dei fili. E basta, niente, quindi ho la Mantova che uso in 10 metri e in 11 metri. Due bibanda della Daimon, una la 510 e la 50, adesso monto la X300. Perché ho molti apparati VLU e due sono senza antenna, quindi metto un'altra antenna e così sono tutti operativi. E poi ho la G5DV, che è quella sempre 5 bande, più devo montare un'altra 5 bande per completare tutti i collegamenti alle radio, perché ancora ne ho senza antenna. Però sono tutte piazzate, il commutatore ce l'ho a 4 più 4, quindi a 8, ha voglia di commutare antenne. Giù, in via Pasqua, che è rimasta l'antenna? Niente, è tutto smontato. L'ultima volta, proprio due settimane fa, perché non ci fa niente. L'ho tolta e quella lì è in garage. capito, non si sa mai che... E invece l'ho tolta, vabbè, non mi interessa. L'ho tolta perché non me la fruttino tanto lì, non si dice mai poi mai, però per il momento non ho nessuna intenzione di spostarmi più da qua. Quello sarà compito di mia figlia decidere cosa vuole fare. Io, vabbè, qua la sua musica, dai, meno traffico e meno brutto c'è, cioè, questa zona, no perché ci abito io, però nemmeno vicino c'è la macchina, lì è troppo rumoroso la notte, a brutto, sirene, gente che si deroga, cioè troppo macello. Lo so, tutto va bene, infatti avevo fatto un lavoro, perdonami a tutti, rimetto subito al mic, ho fatto un lavoro grande che era quello dei controinfissi con vetro anticamera, sfondamento, balle varie perché era secondo piano, e quando chiudevo tutto ero in cassaforte, non sentivo più niente, però mi sentivo troppo blindato e condizionatori sempre andando d'estate, d'inverno, capito, aprivi solo la mattina, tutto, gandariere, balle varie, perché sta tutto rifatto l'appartamento. Io quando ero a riposo, io mercoledì ero di mattina, ero libero, poi di pomeriggio mi hanno impegnato di nuovo col lavoro, però ho dovuto prendere la macchina, sai, le macchine ce le ho dentro, perché qua ci sono due posti auto, quello che c'è la mia suocera prima e il mio, quindi quella mia e l'aria sono una dietro l'altra nel posto auto, perché sono piccolini e ci stanno, quella invece di mia moglie nell'altro posto auto. Comunque per farlo bene devi sempre prendere la macchina, dove per qualsiasi cosa. Là c'era la comunità che aveva andato a macchino, era lì con a piedi, a prendere un caffè a piedi, in banca andavo a piedi, alla posta andavo a piedi, che ce li avevano dietro, la Sisa, la Copec, la Vespar, tutto, farmacia, qualsiasi cosa, là, credimi, facevo tutto a piedi. Infatti da quando sono qua ho ripreso anche qualche chilo in più, perché non sto più scendo, sono sempre a casa con la scusa che sei lontano, andare a trovare gli amici, fare due chiacchiere eccetera, perciò solo quello mi manca, per il resto non si discute. Grande salve abito, quindi molto verde, molto ampio, molte comunità, molto silenzio, la casa è due volte di quella, questa è molto più grande, anche dell'altra che ci avevo su al nono piano, questa c'è una stanza in più, ma è fatta diversamente, molto più grande. Quindi finalmente sono riuscito a farmi la sala radio come Dio comanda, 50 anni, dopo 40 anni di radio sono riuscito a farmi la... Avevo 13 anni quando ho iniziato a parlare al baracchino. La prima concessione infatti mi aveva messo la firma mia madre per averla. Ci voleva il consenso dei genitori perché è lui maggiorenne. Perciò a vecchiaia mi ha fatto la mia stanza, dove non mi manca niente, televisore, computer, tutto dalla Z. Avanti a tu. Positivo. No, bella stazione, bel tutto. Sì, beh, in effetti non c'è quel rumore che c'è lì in via Pascoli, sì, ci saranno mancate un po' le comodità, quello è vero, però come silenzio e pace ce n'è più in questa zona, diciamoci la verità. Detto questo, passo il mic a Roberto Matero. Io un altro ambiente, senza niente criticare, perché no, a me in mezzo alla brutto non mi piace, cioè la notte voglio dormire, sette volte qua che dormiamo con le finestre aperte, per dire stamattina alle 4:30, non so cosa stavamo combinando, tutti i rumori possibili e immaginabili, serrande, carrelli scaricando, ma pure questo stava partendo qualcuno, hanno preso un po', ma hanno fatto un macello, io vabbè, qua c'è molto caldo, dormo con le finestre aperte la notte almeno, poi nei periodi caldi, invece, il contrario, schifo, è troppo freddo. Mi piace dormire la notte, non sentire le ambulanze, perché dove vedi tu, cacchio, c'avevi le ambulanze, la finanza, la polizia, poi cosa va lì, di tutto vera, e tu si coma. Ah, ti posso garantire una cosa, Robè, che io in 3 anni che sono stato lì non ho mai visto cose sporche via Pascoli, è una bellissima via, molto, molto tranquilla, poi da quando c'è la questura lì sono finiti i giochi di carrito per tutti, perché girano molto a piedi e si è pulita moltissimo quella zona. Sono contentissimo. Io come investimento non l'avrei fatto, ho voluto fare mia figlia, e quindi ti ho già spiegato l'altra volta, io non l'avrei fatto, lei è giovane, ha voluto fare un suo investimento, e quindi chiaramente è giusto così. Gli investimenti si fanno da giovane, Roberto, si rivolga a me giù, con le azioni che ti vanno le banche, che poi finendo di pagare il mutuo a 80 anni, invece lei ha avuto questa voglia, questa forza di fare questo investimento, è giusto così, si fanno da giovani. Io l'avevo fatto quando avevo 25 anni, mi pare, 26 anni, l'ho avuto, non ricordo, non voglio dirti una fesseria. Vabbè, io vi chiedo 20 minuti, una mezz'oretta di pausa, perché la cena è pronta, infatti è entrata mia moglie, a chiamarmi Cirenti, ma solo ho fatto l'occhiata come il gatto per non sentirsi la voce, perché mi ha visto col microfono calcato. Però prima di chiudere, vabbè, ti voglio dire, hai notato differenza di modulazione tra il 430 e il 440 che sto usando adesso? Umberto, è meglio l'altro. Questa rimane, secondo me, la parte va bene, un po' più alto di livello. Ti stavo ascoltando e guardando allo stesso tempo, infatti te lo volevo dire. Questa rimane un po' troppo potente, secondo me. L'altra era meno distorta e più nitida. Questa volta vedete che il livello di questa è leggermente più alto. Forse c'è qualche tonalità in più, però mi piaceva l'altra. L'altra cos'era? 4.30? Te l'ho detto. Perché il 4.30 non sto gridando, io parlo sempre molto normale. 430 c'è un modulatore che non c'è per nessuno, se tu lo senti in banda laterale il 430, ti metti a cercartelo, ti metti a cercartelo, perché c'è una MCDA, un modulatore, un autocontrollo che ne parlano bene tutti. Molti radioattori stanno cercando infatti radio come 430, 440, perché anche 440 fa la sua parte. Le vecchie noie degli anni, dei vecchi anni, perché si sono accorti che l'analogico dà meno problemi e quindi è così. Ok, va bene. Allora, io metto il microfono a Antonio, vi chiedo mezz'ora, se ci siete ancora, di pausa, che vado a cenare e poi ritorno. Ok, vai Antonio. È positivo, buona carica, Cody. A dopo, quando finisci il cenare, non ci saranno problemi. Riprendilo. Vabbè, anche io devo mollare, ho sentito il fischio. Vabbè, non so se dopo rientro, comunque Claudio, eventualmente se ne aggiungano, ma sarà molto difficile, sono un po' stanco, ero la moto non attendevo, per oggi non sono uscito da nessuna parte, invece mi voglio fare un pochettino di radio, però sono un bel stanco. Mi sando, mangio e poi mi guardo un po' di televisione e poi mi addormento. Comunque, buon tutto Claudio, fatta domani, vediamo con la roba che mi hai chiesto se ti posso aiutare. Ciao anche a te, perché tanto tempo non ci sentivamo, a Claudio l'ho sentito di sfuggita, Patamona. Ok, buona serata, buona giornata per domani e buon tutto. Ciao ciao a tutti. Kappa, ciao, beh, buona carica anche a te, buon tutto e a domani. Kappa, kappa. Noi ci sentiamo a più dopo, Claudio. Buona carica, buon tutto. Ok, fammi salutare Roberto, ciao, vabbè, sì, domani quando sono in movimento ci passo, vediamo se mi può aiutare a darmi qualche dritta per trovare questo cavolo di antennino che non riesco a trovare. D'accordo, ciao, buona cena, salutami la signora e i bambini. Ok, vado avanti io, sì, solito radio, va. 20 minuti, mangio una cosettina e poi sono nuovamente qua in radio, ok? Cappala, è tutto acceso qua, fai con comodo, Claudio, non c'è problema. Ok, a dopo allora. Cappa dopo, ciao ciao. Eccoci. Sono rientrato, Cappa, cappa. Aspetta, un minuto solo. Devo chiamare un collega, devo dare appuntamento per domani mattina, sono qua. Un secondo. Vai tranquillo, ciao, siamo qua. E chi mi ha il telefono irraggiungibile? Che ore sono? 9:10. 9:15. Vabbè, ci riprovo dopo. Brava, brava. non voglio vedere, perché lui ha parlato di essere molto più forte rispetto a quello di Sassari, perché se è molto forte la varia pressione che domani non si parte all'isola. Vedo gli alberi muoversi, ma non è che sia così forte, perché è molto riparato, capito? Riparato dai palazzi. Ma io lo sento abbastanza forte. Sì, qui chi sa che lo facciamo giù a portatore, se no. Infatti, volevo chiamare per quello, per vedere un po' com'era. Dice che era, sentiva un po' di preparazione, poi non si è più sentito, a meno che non sia andato a caricare anche lui. Adesso vediamo se entra più tardi. Beh, sicuramente sarà andato a caricare, non so, ma lo sento poco fa, non ci aveva la miniera attaccata, perché se ne era basso. Penso proprio non ce l'avesse di niente attaccato, perché mi arrivava abbasso anche a me. Io c'ho quello MA2, lui arriva a 7-8 qua quando attacca, perciò non ci sono problemi. Eia, no, mai facevano altri disturbi da fuori, ne arrivavano forte da fuori, capito? Sono andato da lui, è molto buona, poi è sotto costa lì, è una buona, è alta, già ci abbiamo preparazione noi, ma c'è già dietro. E infatti, capo di Rogero, hai fatto anche il rogativo, bene. Adesso rientrano tutti alle ferie, noi siamo a essere un po' di più, no, stasera c'ero io al panello, tu, dottor Daniele, c'era Domenico, e piano piano, io ho detto un po' a tutti che avevamo ripreso qua sul 10, quindi chi vuole entrare già siamo qua, non c'è problema. Positivo accento, e così è, cava. Così che domani lo prendi il caffè o no? Caspita, se lo prendo, lo vendo così, solita ora, ci prendiamo la caffeina, tanto io esco presto, 6:30, faccio via Milano, velocemente livelli e poi sono giù da te, ci prendiamo la caffeina e poi proseguo, che domani devo fare un paio di manovre qua a Sassari, che c'è un lavoro, una l'abbiamo fatta stamattina e una la facciamo domani, capito? Quindi quando sono a Monte Oro alle 7:30 è più che sufficiente, 8:20. Non c'è problema, va bene, una mattina, 7:10, prima che arriva aspetta, ti sto sempre fregando, vediamo se mi freghi domani. Vabbè, ma altro giorno sono sceso con quattro zampe, ha poca voglia di camminare. Ah, è vero, vedi con Tullio, con Tuglietto, altro siamo litigati di pagare il caffè a Tullio, Ah, sono bigliato. Ah, no, beh, perché ho preso. Sai, anche a me piace il caffè. Però è sconsigliato, perché la caffeina fa male ai cani. Sono curioso sui cani. La tappaita di punta, la tappaita, con cui dovrei dolce, ma che vuole? No, ma io non ho per appena guardate, però senza voglio, c'è capitato una volta. volte mi sono lavato senza latte, ma rane volte, ma una o due volte con le dita, ma di solito gli dopo il latte, capito? Grazie. Vogliamo un latte, ma marita, grazie. Con un biscottino, il fuso rurato, poi me ne ci riato due. E beh, cari, sono curiosi per quello, perché stanno sempre controllando e guardando se possono chiedere, se veramente parlassero, sai quante ce n'è, le cose che direbbe lui. E vabbè, tu cani, così lui va. E per il resto, ti tocca. Sì, per il resto, grazie a Dio, tutto bene, ne sono salito normale. Sono andato per la marmita, per quel terminale che stavo vedendo, e non era ancora arrivato. Ho detto, guarda, se entro domani non mi fai trovare il terminale, no, chiudiamo il battente perché non esiste più. Cazzo, mi ha detto che me lo portavi luci. Arrivavo alle 5 e mezza, sono arrivato l'altro giorno mentre arrivavo alle 5 e mezza, sono venuto mentre non ho smistato una legge. Allora mi si dice, devo ordinare di nuovo questa marmita, adesso va anche già questa volta. No, dicevo, ho chiesto altro rifornitore e cosa. E cacchio, ho detto, guardate la borsa, io faccio una macchina che è tutta sovraventata, va bene. E meno male non ho staccato il giorno. Meno male, che la tua vita mio papà mi trovava a staccare, vai, prima guarda se c'era la vita. E così ho fatto, meno male. Poi ci sono andato quando sono entrato sulla la cosa. Capita, e quando arriva, e domani ho mattinato il pomeriggio me la porta. Ha detto, ormai, ha detto che sia, sì, se no lascia perdere tutto e a tutti i tipi. No, dice, te la faccio bene per domani. Adesso vediamo là. E poi quello di appoggi Giuseppe si chiama, no? E dice che si chiama proprio Giuseppe. I suoi paura da un battianino. No, è quello che ci aveva. Il negozio prima ce l'aveva, dopo c'è l'edicola, visto la vicina, però da vicino a casa c'è quell'edicola. Il su del barrio prima che ho fece l'edicola. Lì pronto non c'era quel negozio dei cani. Quello lì era tipo alto, grosso. Perché mi ricordo lì. In quella zona c'era un negozio di attore, cambiava Bastianino, che se guardia giurata mi sembra. E come lavorava Giuseppe, che ancora oggi fa rappresentante, qualcosa del genere, rappresentante dei ricambi, quindi pensavo fosse lui. Ah beh, famosa anche se ti va lega sotto la portata settimana, che io passo da mamma lì, a parottose, tutti i bombolo. Ci metto molto poco, passo mai a parottose e trattano io. Così a Leo, così abbiamo lì tutti gli sconti, tutte le cose. Vado a dire che prendi un tiro di arendio, 30 euro per gli assumi. Non ti credere che... No, 40 euro, 40 euro. 40 euro, sono al terminale, ma già stavo a domandarmi lì a Walter Usaimi, ero stamattina che sono passato a farmi aggiungere l'olio alla furgonetta rientrando da Sindu, e c'era la spia che stava lampeggiando, c'è anche la domani a volte, a vedere quanto la paga lui la marmitta al terminale, non la marmitta al terminale della roba e le cose, quella c'hai tu, a vedere, minimo a me mi dite 30 euro, a me. Perché l'avevo messo io in quella di mia moglie, la matizia, e lui mi pagava 30 euro. Bene, fate, ma non si sono ascolto, fate, mi è sembrato anche un po' caruccio per essere il suo cliente, ma comunque, 40 euro non è che sia questa grande di cifra, ma se mi stai dicendo che ne hai pagato 30 euro tu, ma forse la macchina a macchina, comunque. E io avevo quella macchina lì. Vabbè che pezzi li trovi così, capito, però bisogna vedere. Bisogna chiedere tu, informati se non fa il porta domani, fammi sapere. Devo ricordare le attrici a Gandarrivi. Non lo faccio portare a volte. A volte se lo dico passando la mattina, ripassando, tornando più che la mamma. Perché il fornitore suo gli porta lì, ci serve la capelli, capite? Ah, che apparato. No, ti faccio sapere, se ecco domani loro mi porta la mannicia, lo dico a te, così me la prendete un po' di volte i soldi, dai. Io ti preoccupa, papà, fammi sapere se te la porta lui, tu già. Ce la prezzo molto marmita, sto qua a rimanere a piedi, va come te, non può mai avere, ancora è morto. Non va bene, e dobbiamo sempre fare quella cosa, metterci quella antenna là. E lui sta pure a fare lì, invece che metti in gatto, perché ne ho visto una volta, però non so se è quella. Bella sdraiata, Franco va avanti, siamo divertiti giù. Abbiamo passato una bella giornata. E niente, però quando vai bisogna sempre arrivi bici, mamma mia, un pericolo il cazzo. Perché io non vorrei, capito? Ma fa bene agli altri. Quello che non beve lui, io ho fatto l'altro giorno, detto, vedi se non ho bisogno, no, lo so bevuto tutto prima, mi ha detto. Ah, è stato a lei. Ma non gli ha anche che si ammazza. Non manca niente, no. Una cantina dove c'è di tutto e di più. Non manca niente lì. Grande la casa, bella, spaziosa. E un garage entra i gurugami mentre dentro. Articolato entra. Possiamo girare qui nel paese, le più piccole saranno 300 metri quadri, le più piccole. Una casa allucinante, tre piani, mi aveva giù, mi sono morito al gare, poi c'è dentro il camion, dentro. Non deve caricare, scaricare, dentro il camion, dentro. E poi c'è un bel terrazzo, e lì abbiamo messo l'antenna. La zona, una collinettina entrando in paese, a destra c'è una salettina, si sale un pochino in alto, che aspetta voi che mi squilla. Cappa, cappa, patra, grossi. Vieni qua. Ciao, cava. Ma non è vento a questo zona, non è vento. Prendete. Perché lui abita lungo mare, capito? E per il mare, cercato c'è un mare. Quindi è maestrale. E mi ha detto, se non cala stanotte, o domani mattina presto sicuramente, alla generale c'è cala, non ci andiamo. Bel casino, ma che me lo lascia mai martedì, cazzo, e mi ci girano belle palle. Cappa. Perché poi io ho chiesto tutta la settimana di ferie, me l'hanno fatta e quindi non mi voglio incasinare con l'isola. Ascolta, a me vabbè, quello vediamo di sopra domani. Al ministero, ma mettiamo a prezzo. Per telefono dico di entrare da Stentino. Entra da Stentino e si fa questi rilievi, perché io martedì non ci voglio andare a cena alla gente, ma le balle. Ascolta a me, ma tu non sera, dopo le 6, come sei messo? Quando? Lunedì dopo le 6. Ma dove di essere libero? Allora, tanto ci abbiamo tempo, fammi sapere con certezza, perché allora ci sono lunedì dopo le 6, tra l'altro poi c'hanno problemi col padre, mettono lunedì dopo le 6 sono a casa, quindi se tu mi dici che ci possiamo andare, io passo a prenderti e ti accompagno lì, così lo vedi questo lavoro. Ma confermato per lunedì, allora non c'è problema. Sì, allora glielo confermo domani lo telefono a questo mio amico, le confermo lunedì dopo le 6, dico porto il muratore per questo lavoro, così mi mettete voi. Oppure lo fini tu adesso, poi parli con quella tua, va bene, parliamo domani mattina, dai. No, però, ma comunque, è confermato per lunedì pomeriggio, non prendo altri impegni e ce lo sono con te, dai. Bene, allora io glielo confermo, così io ti porto lì, e vieni, e poi così sei già a casa e ci vai con il tuo compare e lo vedete assieme. Ia, perfetto. Cazzo, ma sta male un vento, porca miseria. Ho dovuto chiudere le finestre e abbassare la mascolata perché è troppo freddo. Io vedo gli alberi muoversi qua nel giardino, nel piazzale dove... Però non vedo altro. Io sono coperto dall'altro palazzo. quindi vedo solo gli alberi muoversi, ma non so in quale quantità sia il vento. Mentre dall'altra parte, dall'altra strada, sono uscito per fare il congiolo, ho dovuto tirare sulla tenda perché rischia che si rompa. Invece lì si sente, ma qua no. Qua no. Ed è anche freddo, infatti sulla maglietta, perché c'è freschetto, sta iniziando a cambiare il tempo, vabbè, già non mi dispiace, a me già va bene. Vediamo un pochino, lasciamo un attimo il bianco, in un certo modo. Anche adesso, aspetta che lo chiamo adesso a Antonio, se è domani mattina, poi io essendo in giro, il mio telefono non è che prende sempre. E con l'altro di servizio mi gira le balle a chiamarlo. Aspetta un secondo che le confermo, lunedì alle 6, dopo le 6, ok? Confermo di tutto, sì, sì. Dopo le 6 siamo liberi. Ok. Vinucento, Vinucento, Vinucento al volo. Deve essere c'è ariete anche da lui, c'è molto, molto vento anche da lui. Vinucento al volo, Vinuccio. Ok, a posto, che ha fatto la vita? Sì, ma è lunedì sera, dopo le 6 sono a casa. Il cugino c'è il vecchio, dice no, stai in mezzo alle balle. E quindi vi dico cosa c'è da fare. E fa vedi due tarracci. No, mi stava dicendo la sorella, cazzo è lì in Viarda. In Viarda dice non c'è ormai pressione d'acqua la sorella. Ci hanno fatto dare il numero e tutto e domani mattina ci mando un collega a verificare se c'è il conduttore intasato, se è la linea. Oppure se c'è bisogno magari di per più di pressione gliela faccio là. Grazie di acqua, buono! È sempre di acqua si parla. La paletta è la peppa, eh. Ehi vabbè. Ho tu mangiati col sole vattene via Pascoli e non c'era di pressione. Nulla. Ho fatto stagiare tutta la linea e dal partitore di lì della rotonda lì dove hanno fatto la rotonda, quella a fianco alla rotonda c'è un tombino, c'è un partitore che ha fatto l'ora e mezzo giro e adesso c'è bene la pressione lì, c'era tutti i negozi lì a fianco, tutto lato strada, però l'altro lato non mi interessava, lato in discesa da via poligono. Tutti lì, li ho tutti sistemati. Infatti non mi sono andato, ho detto, oh, mi sono toccato, mamma mia, mamma mia, ora mangeremo, e io sto toccando nessuno, non mi preoccupi. Non tocca niente nessuno. Il capo dell'acqua sono sempre io. Infatti dico, ehi cazzo, abbiamo messo anche un paio di contatori nuovi lì in quel palazzo mio. Un paio di una vecchia. Molta la divisa, non che ci dobbiamo, stava stanziami, a prendere l'acqua, giù, nel rubinetto di quello che lavora il carro, non c'è mai l'acqua a casa mia, ma devo dire non c'è mai l'acqua a casa sua, siccome lì i contatori sono tutti separati, sono 15, tu non c'è acqua, se lei viene a fianco a me io ce l'ho, lei non ce l'ha, e cosa vuole che le dica, tu hai 70 anni, sta bene, fa dei bagagini, dove faccio il suo contattore, sono andato. Ha simulato un controllo in ingresso, cazzo di mano con la luce una pressione, però poi qua c'è la pressione. Allora perché io non ero acqua? Adesso faccio vedere perché non è acqua. C'avevo la furgonetta, l'ho messo un tappo cieco, ho fatto il contattore. Ma chi non va via, manco usava la cinesca l'ha detto. Figurate il due. Infatti io ho messo il contattore nuovo, la sera cinesca gli ha detto prima e dopo. Perché il contattore è completamente chiuso, quello di San Rado, completamente chiuso. Completamente chiuso, Anto. No, perché manco girava. Io non capisco come facciamo a fare la lettura, cazzo. Allucinante. Ho fatto comprare il modulo di richiesta, tutto. Cioè, no, non è buono che potevo pagare, non pagavo niente, non mi aiuto. Si è fatto filmare il contattore da praticamente rotto. 60 su 120. Capite, te li metto tutti nella prima bolletta, e invece non ho fatto pagare niente. Ehi, arrivava poco il goccio che andava in chip. Guardatemi due cavalli, Anna, 1000 mele porta tra la campagna, 1000 limoni, cazzo. A mia voce prendiamo di brutto, di limoni, di sugar. Io me lo... è stata lei una signora gentilissima, tanto così, per desvestire... basta, non ho mai capito. Magari non le ha fatto pagare nulla, lei ha contraccambiato così, capito? Contraccambiamo così, asso, sempre, quando ho tornato al marito la campagna, sempre suonavo il campanello e mi caricavo le robe a Natale, mi aveva portato e quello mi è servito come loro, perché non riuscivo a trovare vino buono per la cena di Natale, eravamo tutti assieme e non riuscivo a trovare vino buono. E mi aveva regalato 10 litri il marito Maghillo, vino Antonio mio, di quel rosato, non molto forte, rosso, però non rosso, rosso, rosso, capito? Quello era un rosatino, ma non molto, molto forte, ma dell'annata proprio, dell'anno che l'uva era micidiale, il vino, capisci? E mi tutti ispirati, ma come ci vedo? No, tocca c'è, no, tu binoghi e boom. Fuori, che tu, viva! E beh, come l'avevo messo nelle bottiglie, tutta una dispensa, e lì ho fatto anche la dispensa, era sempre fresca perché rimaneva in mezzo tra le due stanze, tra la sala praticamente, che era proprio appena entravi, e poi c'era la starchiata grande che avevo fatto, e quindi facendo la starchiata si era un po', era nata questa risega e l'avevo fatto mettere una di quelle di scrigni, no? E ho fatto una dispensa piccolina, comunque ci avevo messo una scaffale in ferro dentro, cazzo, via sintato in chili in pulli, e non hanno durato molto però, piano piano, piano piano, via, me non lo faccio giocare più, cazzo, me lo tenevo regato vino, non è a casa, mamma mia, me lo tenevo regato vino, no. Mi sono comportato il vino che era buono, ma che quello che prendeva Franco, l'ho portato, l'altro quando veniva lì, cazzo, sempre senza il vino, e allora tu bevi acqua stanotte. Troppa grazia, tanto lo riuscirei, vabbè. No, me la cosa, consumare la fretta, capito? Io bevo solo vino, altre cose non ne ho più toccato, cioè da quando ero stato male che ho sofferto un periodo di reflusso gastroesofageo quasi in reattale, quindi avevo dovuto mollare tutto. E poi non ero amante sui supercurci, però sai, le amate caffè li prendevo, il camparino, queste cose, la birra, e quindi ho mollato tutto. E dopo solo il vino mangiando a casa, e se ce n'è, se non ce n'è non me ne frutti nulla. E poi la stessa cosa, la mattina io prendo il caffè, quindi prendiamo assieme, a quell'ora lì, poi ne posso prendere per dire un altro a metà mattinata, ma non più tardi delle 11:10, così magari nella zona di giù quando mi fermo a fare qualcosa, e poi verso mezzogiorno e mezza, l'una meno un quarto mangio due strottatine, due cosettine, e mi bevo un aperitivo per me, il vino con la gasosa, boh, e basta, ci è rimito, finito lì, te l'hai visto io quando ci vediamo, che poi non ci sei più sceso, quindi non ci vediamo, non ci stiamo vedendo il sabato, ma io giù da Roma conoscendo il sabato, se non sono libero, perché sto lavorando, passo solo 10 minuti proprio quando sto rientrando da Senore, ma bevo sempre la solita cosa, un vino vagazzoso e truba, perché altre cose non le posso bere. Non si muove più giù, e pure la sigaretta è una gran maledizione, ma non ci riesco a quella cosa. Invece non sarebbe stato un bene lasciare quella, perché quella è una cosa che fa lo stesso. Ma purtroppo non si riesce più, io volendo già riesco e non è che mi faccio comandare lì, però non si è abituati, si è abituati con l'istinto di mettere quella sigaretta in bocca, e mancia. Io vado guidando, non è che se sono fermo sì, ma se sono in movimento sto facendo io non capisco cosa di buono che c'ho, che se sono impegnato non fumo, se sono invece fermo, adesso in radio ne ho fumato due, basta, ci ho portato anche il portacenere, niente, Buglio, sto stringendo parecchio, ma è che non sia un grande fumatore, però lasciando quella sarebbe ideale per il mio problema. Il mio problema, anzi, con la cura che avevo fatto non ho più sofferto, ma prima che mi veniva anche i grugioli allo sterno, proprio allucinanti, ma quello era perché ne approfittavo di tutte le serate, di tutte le stronzate, infatti già, ne ho avuto le conseguenze dopo, ci avrei già quasi dentro chi, adesso ne peso. Ne ho preso 90 di nuovo, ma perché sono molto più fermo, non sto più scendendo a piedi, niente, ne sono fatte, chiuse per cazzo. Già va bene così. Ok, riprendi ancora. È così. E alzo bene, sei sceso una decina di chili e non è neanche da poco. Già va bene così. E vabbè, perché lo fai sovrappeso, poi è una cosa non tanto buona, la verità si dica. E così, ma ora intanto, ritorno al discorso delle bevande, cosa, sì, ci sono tutte cose che rovinano. Non ti accorgi subito, ma no, e dopo ti dà buco, tutto di colpo. Sì, luce. Sempre stata una brutta bestia. Io ti posso dire che anche con le analisi non sono mai, sì, una volta ero andato proprio, bisogna soltanto davvero, ma ti ripeto, perché ho esagerato un po' in tutto, adesso mi sono rimesso a regime praticamente, bere pochissimo, sì, c'è questo vizietto della sigaretta, grassi pochi, prima i salsiccia e affettati a tutto andare, adesso invece è proprio pochissimo, proprio a regime, non dico che non mangio, però rispetto a prima, non mi dai, roba gasata, non molto, mi piace ogni tanto qualche bicchiere di Coca-Cola, perché mi risente fresca così, però secondo loro che la bevo non mi fa dormire, è molto più assoluto, la mia moglie va a prendere quella senza caffeina, invece io già andata con la figlia a fare la spesa e mi ha pigliato un bricchettero senza di quella normale, e quindi adesso che non avrei bevuto un bel bicchiere, ne ho 7, ma non mi fa, altrimenti non dormo, e domani me ne voglio alzare tranquillo e sereno. Sono stato tutta la notte, gira che ti gira, tu caffè è il mio micidiale per me, non ti fa niente la notte. Allora io posso bere qualsiasi ora, no? No, non mi ha fatto mai niente, la verità. Lo puoi bere qualsiasi ora? Sì, qualsiasi ora. Anche se capita la sera che mi viene voglia di anche il latte, ecco, lo metto in mezzo al latte, no, tranquillo, ma dormo tranquillo, lo posso bere anche senza latte, ma non mi fa niente, no, tutto tranquillo. Ti beato a te, piacerebbe, soprattutto quando sono di rientro, quando ando mezzo appuntonato, mezzo dormito, che a me dopo pranzo mi arrabbio qui subito. Quindi sai, un caffè ti tiene sempre, invece non posso, perché secondo che ora lo prendo non dormo più, non riposo più, capito? E quindi niente, caro Antonio, niente da fare. Sì, guarda, adesso vedo gli alberi che si muovono un po'. Caspita, c'è un ventaccio, ma poi io non c'ho nulla, Ci sono le potomo di fronte qua, ma porca miseria, cavolo, vanno a fare un po' di vento. Il vento, caro mio, è cosa buona e giusta. Se non ci fosse il vento, non ci sarebbe neanche la pioggia e non ci sarebbe neanche il sole. È sempre tutto collegato. Come tu vuoi, ci vuole perché spazza via tutto l'inquinamento atmosferico e poi porta sempre aria. Il vento ci vuole, soprattutto l'estate, cazzo, è un tabello del vento fresco invece. Cazzo, l'estate, esempio, scirocco, libeccio. Allora, maestrale, allora, chi non mi piace l'inverno, a me è un guaggio, non è la tramontana, mamma mia, mi sei attuccati, ma è maestra l'otto, l'inverno è bello perché spatta via tutto, la tramontana è troppo fredda, cazzo. La tramontana è uscireale, porta freddo, è vero. No, questo qua è freddo, così che va bene, dai. È anche piacevole. Dopo quelle lunghe giornate di caldo, per carità, la pazzia parte dalla doccia, di ti assurare. No. Non fa. Non fa. No, non fa per mille motivi. Caldo. Stavo leggendo le statistiche. In Italia, soprattutto al centro Italia, sono morte un pochino di persone vecchie, anziane, non vecchie, soprattutto per il caldo, te lo immagini? Sì, perché magari non si ha un po' di sofferenza, di soffre di qualche malattia, tipo, la posso dirti, sono stato qua e per queste persone qua è dura veramente, e basta che faccia un po' di caldo in più e ne soffrono, se ne soffrono sì, infatti bisogna stare molto molto attenti. Ecco perché sto dicendo, ci vuole un po' di aria fresca anche per loro, se non sarebbe essere proprio egoisti a dire ma sino a tutti, io già lo sopporto, no? Da fastidio a tutti, da fastidio a me, il caldo afoso, il sopicciglucio, babbo che schifo, perciò non c'è sempre quella giornata che non è fredda, che puoi uscire ancora mai che cose, certo io sabato siamo usciti e mi ho messo il giubbottino perché passeggiando ho portato ora che siamo usciti e c'era un po' di venticello fresco, però è sempre piacevole, capite? Sempre piacevole. E io ti spogli anche nudo, c'è sempre caldo, quando c'è caldo. Il vento ti copre e non hai freddo. Il problema è sempre quello lì. È quello sì. E se è caldo ti puoi stampare, sempre ti puoi stampare, ma caldo è tutto l'altro messo, nel senso è caldo, quando è caldo, porca miseria, non stai né vestito, né svestito, né nulla. Caldo è caldo e basta. È una cosa che non si vuole. Una cosa che non si vuole, il caldo e non c'è da fare. Io sì, lo sopporto, però mi piace più il periodo invernale. Esci tranquillamente col tuo giubbottino e non hai problemi di nulla. L'estate, pure ci fai, ci è maniche corte, non vai nulla, pantaloncini e tavato, è sempre caldo, vai. Sì, beh, non è più così. No, anche io preferisco molto più l'inverno dall'estate, anche sul campo lavorativo, perché col caldo lavori male, invece l'inverno sempre dovete giubbottino, tranquillo, e lavori ad hoc, magro gagno, mamma mia, dopo lavori più pesanti, lavori più senza ossigeno, senza nulla, è un casino. Stavo guardando se sentivo Pinuccio, ma non lo sento. E tanto, c'è molta gente che piace più il periodo estivo, forse perché va al mare, perché a me dal mare non me ne ha fatti nulla, quindi non mi piace più l'inverno. Mi piace sì la lungatura, ce l'ho da prima che mi piace l'estate. Però non me la fottuta che andava male, la moglie arrugata, non mi piace, non è sceso le balle, mi sto male e quindi non mi interessa. La temperatura basta sia fresca, per me va bene, se è calda non ha rotto le palle. Si conferma, ma io molte volte mi guardo le persone che stanno dalla mattina alla sera lì a prendere sole, cazzo, io dico si prende pure il sole, cazzo, che giusto lì, cazzo, ma stai tutti 8 ore grandi a testa sole lì, cazzo, non escono fuori di testa la gente. Metto la multa, me ne trovo a volo, ma ci sto quelle 4 ore, 3 ore, ne apro il liscio e basta, no, ma a me il cazzo della gente non mi piace, capito? Io cerco sempre posti in cui passino meno persone possibili. Diciamo così. Mettiamo il cucino, ma anche i lavori della figlia stessa cosa, non ci vanno, c'è molto casino. No, ma cioè, se vai al mare vai per rilassarti, poi puoi andare a farti castigare i piedi, o anzi adesso con le nuove leggi che hanno fatto non puoi più giocare a pallone in spiaggia, non puoi fare determinate cose, se porti il cane mi pare devi avere non so che cosa e poi lo devi tenere sotto l'ombrellone, legato all'ombrellone a qualche parte, se mi ricordo, c'è tutto lo statuto della zoofila. Però certo, prima era una cosa vergognosa, cazzo, ci vuole giocare anche se con la palla te la cudiana in alto e quell'altro che si poneva a correre a giocare lo bigliolo e ti passava sopra la sciugamano. Più di una volta ho rischiato i bisticciari con la gente, quindi preferisco andare sempre dove non c'è nessuno. No, ma è giusto che abbiano tolto questa legge, sì, l'ho sentito anch'io. Tante cose, non puoi giocare a pallone, né a racchette, né nulla, no? Hanno inventato un po' di tutto, ma è giusto, dicevo così. Se uno va al mare va per rilassarsi, no, per buttarsi, cioè per vedere il tipo, recuperare il pallone, o buttare il pallone addosso, o la sabbia, compagnia bella. Se si va, si va per rilassarsi, no, per subire quello che fanno gli altri, o no? No, negativo, è buono che l'abbiano fatto, lo dici, è giusto che siamo così. Beh, sono un sacco di normative adesso che hanno varato proprio da poco in regione, sono stati tutti che già sono stati approvati e riguardano proprio la tutela dell'ambiente, quindi tutto il salvacoste e tutto il territorio a livello costiero va salvaguardato, quindi determinate cose non si possono più fare sia da mare che da terra, ci sono un sacco di cose. Adesso ho guardato proprio l'altro giorno il comandante della Zuffa, lo stavo sfogliando così, ma non ho avuto 2 minuti per leggerlo, ma vedo uno sguardo, stavo solo guardando quelli dei reti e cani, che appunto ci sono delle altre novità, però non l'ho visto. E io, se non puoi tu andare in spiaggia a fare quello che puoi fare a casa tua, non è roba tua, sta cosa di spostare, anche guarda che non spostano neanche più fare quei fusci grandi che si facevano prima nella spiaggia, no, perché può passare uno, inciampa, si fa male, cattedra dei bideggiani. Tra poco bisogna andare in chirico, lasciare con la candela di voce e ti muore a pregare. No, ma è troppo, però è giusto, fa anche bene esserci queste leggi, però purtroppo stiamo arrivando al punto che ti porteranno a pagare tutto per tutto quello che fai, scusate te, anche se va nell'accesso di pagare. Chi su già va, siamo nel continente, devi entrare comodi e pagare. Oppure c'è quella che pulisce, che sta lì, anzi lei va al bigiardino e te la ripulire, perché non è un attore, non c'è un'altra legge, ma perché attore quella che tu non conosci, dove va verde, cazzo, il casino aveva fatto questa, cioè io vengo qui, Io non sono te la lucinata, hai visto che non parlare, ti porta tutte le motivazioni che immaginabili. Signor Gianchi, tu vuoi tutto il mondo, non è che tu hai. Sì, sì, l'ho sentito anche, è tantissimo la novità. Beh, io pensavo non mi sentivo, ma non mi ricordavo più che siamo a 40 metri di altezza. Che appareva la smetterò. Capito, quanto? E uscire. Se c'è una bella aria che è custodita, pulita, e va lì e si è anche servito, per carità, a me va anche bene. A me va anche bene, perché io vado, arrivo di Pantamona, e mi pare si paga, non mi ricordo, quanto è la Pantamona? Quindi 14 euro la domenica e 10 euro i giorni feriali. Sì, se il mito è venuto, ti dà venduto, magari si la futti, non si vende tutti di lì, no. Vai lì, però non c'hai il parcheggio custodito, c'hai ombrellone, tra. Non c'è il parcheggio custodito. Ah, pure, allora non comprai più. Allora è troppo caro. No, è bene quando è così, dai. E basta, nella zona pulita nessuno ti rompe le scatole, quello è vero, no. E sono lì, per esempio, in prima non ho cambiato tante cose, la verità, ho trovato il posto più pulito, prima era tutto marcello, entravano casini a destra, casini a sinistra, no? Lì adesso è tutto, hanno scavato per terra, in modo che le macchine non possono salire vicino alla spiaggia, e tutto ordinato bene, le macchine vanno messe puri, anche per paura degli incendi e compagnia bella, è tutto organizzato dopo. E infatti sono rimasto contento, la verità. Io sono andato in sud perché sono rimasto contento, tutto qua. E poi anche giusto che sia così, dai. Anche loro essendo cooperativa, si devono pagare le cose sue, gli operai, compagnia bella, è giusto che sia così. Cava, no, voglio fare una volta, tutti i vari sacchini, uno da all'altro, lui per carità, capì. Mi appoggia, me ne paghiamo, mi. Che ti sa? Coca-Cola con la cannuccia. Garpe grosse senza attacchi. Non si comprende un grado, ovviamente, non se gli risponde. Io se dove sta parlando, se vuole attaccare un bottone, se parla italiano va bene, se no, io che voglio avvaltermi, che parla lo slavo, cazzo come gli zingari. Vero, vero. Ma io, lui, Borino, Conde, Dole, quello che vuole, via, gente, troppo. Se non si capisce niente quando parla, non arriva a porta maledizione, ma non facciamo vicini lui. Se no rompe le scatole, quello che lui si è messo ai piedi. Comunque, cosa sta facendo? Me la metto più. Lì si riplattava, vedi, il parcheggio se è a parte, no? Beh, ma la puoi mettere anche il parcheggio custodito. Sopra la macchina? Sopra la macchina? Ma che dimmi, ti abbiamo detto che è boh, adesso mi ha fatto ricordare la cosa, non ha voluto pagare il... Perché non c'era apposta, no? Nel parcheggio custodito, no? No, qua nella stanza mia, perché c'è la finestra, c'è il parcheggio quando arriva mia figlia che è al lavoro, uscita adesso. Non lo faccio nel parcheggio custodito, tanto a chi non ve lo guarda il dito, parli per me di no? E l'ha messa sul marciapiede, capito, fuori, è tornata con un risalto di 72 euro. Beh, è normale. Ah, perché passa le bici, è vero che lì già passa le bici, ma il signor, e lì se le voglio. Anzi, 38 euro, mi sta correggendo, 38 euro, capito? Quindi, canti vicino ai barcheggi. No, li passano perché c'è proprio il divieto di sosta. i parcheggi li hanno fatti sul marciapiede a spina di pesce prima della curva per arrivare alla rotonda. Sul lato sinistro non puoi parcheggiare perché altrimenti non ci dà il tram, è sul lato destro della prima curva. E cioè nel rettilineo per arrivare alla rotonda, no? E i parcheggi lo stesso a spina di pesce. E a destra non puoi posteggiare perché se no non passa il tram. E la vedi un parcheggio, un'altra marciapiede, boom, e si trapporta, senza guardare che gli altri hanno le strisce blu, capito? Mentre lì, tu... C'erano altri nel parcheggio, nel sotto marciapiede. Ah, c'erano, vabbè, ma la macchina dove è finito? Claudio Matti, imbecille. E mi dico, buona Giulia, ne avranno messo altre, però, dico, cosa è servito a non aspettare che si liberasse un posto auto all'interno del parcheggio custodito e metterlo lì. Sì. No, non lo si evita niente. Di sera andavi al mare. E ma capisci a Tineghito, ma andava a mare. Ci vanno andare a mare a mezz'ora, io credo che la goccia non funziona. E vabbè, lasciamo perdere, se no. Poi ci usciamo alle cose brutte. Comunque, lì i parcheggi ci sono, quindi è tutto custodito, è tutto messo bene in ordine, si può andare. Dopo hai detto tu ci vado, io ci andavo, quest'anno non ci sono mai andato, ma lì ci va mio fratello, le saline ti vanno, quei posti lì, ed è bello lo stesso. Altra cosa che avrei fatto un po' più decente, un po' più diciamo accogliente, è la zona di Fiume Santo. So che lì non puoi, l'anno scorso c'era il divieto di balneazione perché c'erano degli scarichi della cosa, come si dice, del dissalatore della centrale, e quindi era pericoloso. Perciò quella spiaggia è molto bella, mi piace. Il problema è che... Cos'è il tuo rumore? Niente, non so io. Ah, c'è roba al fuoco. Non attento il rumore, ma sì. Poi c'è roba al fuoco. È molto bella quella spiaggia. Però non è valorizzata perché c'è la centrale troppo vicino. Capagata. Eh beh, anche quello è vero. È una bella zona, però essendoci la centrale è pericoloso. È vero. Ha fatto abbastanza caldo, ho visto tutto ben pulito, si è fatto una bella passeggiata a piedi, però hanno lasciato tutto in ordine. E siccome quella strada lì c'era un altro ingresso, se non mi ricordo male, non passando da Etimano, prima di arrivare a, ma molto prima di arrivare anche lì a Etimano, lì nella salitella dove ci sono qualcosa lene lì, quei pali unici come compagnia appena, lì c'è un altro ingresso che c'è una cabina fuori, non so se c'è presente, un po' dopo la salitella, diciamo, fa la discesa, la curva e poi trovi la salitella subito sulla destra, che c'è una casa, c'è un caseggiato un po' vecchiotto. Da lì ti porta lo stesso alla spiaggetta, però non so se lì l'abbiamo chiusa, perché il traffico di macchina non l'ho visto più, se tanto lì l'hanno chiuso l'ingresso. Lì hanno fatto la rotonda nuova, quella che praticamente saliva al village country lì. Al country village, come cacchio si chiamava, si chiama ancora, non lo so, lì c'è la casa mia sorella, adesso ex bagaglino, lì. E quindi quella strada che stai vicino a Tucci l'hanno chiusa, è aperta un po' più avanti. Ah, ecco, allora, infatti me la sono immaginata, io ho detto, strano che non vedo traffico di macchine, e di solito passavano la lì la maggior parte, no? Per non fare scendere proprio giù a tutti. Capito, allora tagliavano lì e dove si ritrovavano lì nel posto. E senz'altro l'hanno chiusa, eh. Era anche una strada brutta, tappusta, sembrava più una strada di campagna di quelle abbandonate. la verità. C'è stata una chiusa, infatti sono tutti da Lisbona adesso, la maggior parte. Sì, perché lì hanno fatto la rotatoria, quindi che praticamente sì, hanno chiuso l'incrocio, quell'ingresso a raso che c'era, dove c'erano sempre le bandiere del Country Village, no? Che era molto pericoloso, sia in entrata che in uscita, mi dovevi fermare in mezzo a strada. Praticamente adesso l'ingresso è il primo, quello che si entrava una volta, che rimane nella rotatoia stessa. Come fa la rotatoia? Svoltando a destra ti indica villaggio vacanze, centro vacanze, non è molto buono il nome, chi? Sempre ex bagaglino, quindi non c'è problema. E quindi da lì è il primo ingresso per salire il villaggio. L'altro che stai giunto si entra sempre lì dall'incrocio delle saline. E non hanno fatto bene a eliminarli con l'incrocio perché erano pericolosi. Quindi puoi entrare solo se sei scendente verso Stintino, a destra puoi entrare perché metti freccia e entri. Invece qualcuno entrava anche da Stintino per Sassari, quindi è molto pericoloso con l'incrocio. Hanno fatto bene. Sì. Beh, le fritte hanno fatto benissimo sì a chiuderla. Sì, perché ritagliavano tutta la strada, è vero. E molte volte entravano anche contro loro ed era pericolosissimo. E hanno fatto bene, hanno chiuso. Ma intanto c'è la rotatoria, devi fare la rotatoria, entri per se puoi andare lì alle salire a vecchio bagaglino. Per portare la rotatoria devi fare, capite, imboccarti sulla strada che c'è, che è nuova, diciamo, hanno fatto. E l'altra si era fatto bene a chiuderla perché sboccava dalla strada proprio quel tratto del rettilineo ed era molto, molto pericoloso. Buonasera. E questo altro tomba, dove sta facendo? Tra poco più, dove sono seri, cioè, tu che vedi meglio di me, l'imbarriata di formica c'è. Non so per dire, ma magari che avevi visto un'ambulanza, dove tu? A Cipriccio, questa voce è oltre tombo ha detto, ed era un pugno io. No, l'ambulanza gli è passata, ma che cosa è successo intanto? Ma si è fermata vicino a te perché qua non è arrivata. Ma no, si è fermata vicino a me, sì. Che anche lui ha trucato la mano del buio. Come sempre, come succede sempre, è una cosa allucinante. E allora stasera bisogna staccare anche i cavalli della come si dice, dell'antenna, legato a bar, le bar da tenere in mare della voce. Ci vede lampeggiare verso la parte di Ossiri. Qua si stia arrivando da Ulvia questo tempo, ma noi abbiamo il metrale che sta spingendo, quindi non dovrebbe toccare Sassari, perché sta spingendo contro il vento praticamente, non sta spingendo verso quella. Ecco, noi siamo al contrario di Ossiri, dovremmo essere, mi pare, da come vedo la cartina, siamo in controvento, stiamo andando, quindi non arriva qua. Cioè il maestro che sta spingendo, sicuramente lo sta spostando un tempo là. Va bene, ma mi ha dato che vuoi staccare un PL, io vuoi sapere che si stacca. Ma dice, se mi muove a staccare PL, devo fare la domanda, è catabolata, mi sta come la manzana. Io c'ho direttamente la stacca in termine a tu, se no non riuscivo a togliere i piedi. C'ho lo stacca in termine con un conversatore. Praticamente quando c'è qualcosa mi scarica tutto sul condensatore, non c'è problema. Ho uno stacca antenne col neutro e boh. Vai Antonè. No, io ho fatto perché stavo alla finestra, ho visto questa cosa, ho detto, eppure fuoco di picciare non sono. Quando ho bilocco e ho appena fatto dei fulmini, figurati, io verso la cimenteria. C'è uno spazio che è tra una casa e l'altra, una volta la roba, gli ho detto, proprio, guarda che stavo bene, una bella passata di acqua, non c'è più nessuno. Molto che sta aumentando, posso diminuire, non so come scendere, ne vedo uno che scende. Qualcuno ci mette dentro l'ascensore allora. Ah, e cosa vuoi dire? Bubu. E dove sono i bombini? Ma sono scesi adesso. Mi ha scoperchiato qualche tetto con questo momento, cosa ne so qui. Non c'è che faccio mio figlio. Quando mi arrivano, perché sennò vado a qualcuno che le serve in campagna, perché sono mobili buoni, non è che sono vecchi. C'è i due divani che avevo io prima e sono buoni lo stesso, capito? E invece mi hanno detto che ci sentiamo venerdì, perciò se loro vengono venerdì voglio mettere la parte della roba già in partenza, e quindi me lo voglio sistemare. Venerdì prossimo vengono, non questo venerdì. Venerdì prossimo, poi c'è martedì, vado in ferie e ho il tempo per sistemare anche quello. Cosettine così, ma mi preme se non continuo a fare il vento, mi preme ultimarmi anche il lavoro delle antenne, così ho completato tutto, chiudo la canala, infatti viene Antonio con la scala, Antonio e Mario Manser, perché io non ci salgo, io l'ho fatto, il buco l'ho fatto con la scala aerea, anche se sono 10 metri, o con due scale accoppiate non ci salgo, manco ci mi passo. Perciò Antonio ha detto che non ho problemi, la scala ce l'abbiamo, e sale Antonio e me lo chiude, non problem, il foro nella canale, no? Dove ho fatto scendere i cavi, che praticamente è il foro che ho fatto per entrare i cavi dentro da me, no? Nella finestra. Quindi c'è già un tappo suo, originale, comprato, e poi siliconato e messo per non scendere l'acqua. Tutte queste tronzate devo fare, tutte queste tronzatine, per cui avrò il tempo anche di rilassarmi qualche giorno là. Sì, prima di fare la parola è facile farti scendere il capo e farti uscire fuori. Poi ci metti i tappi, cioè quando ne vuole ti piace l'antenna, dico come fare così. Solo deve stare sempre a prendere fiorendo, ogni volta che vuoi installare qualche cosa di nuovo. No, installo qualcosa di nuovo, uso i cavi che ci sono, Antonio, non sono scemo. Allora, che cosa ho fatto io per poter realizzare questo progettino? I cavi di scelta sono sono quattro, devo montare altre due, di due antenne che devo piazzare, giusto? Ne faccio scendere un altro già pronto, forse altre due anche già pronti, non apro più, perché antenne non me ne servono altre, però nel caso sai c'è una novità, una direttiva, qualcosa che mi fa rimontarla, la piatto, ma mica sono scemo di aprire. Quando chiudo definitivamente qua, mi tengo due cavi in ingresso qua dentro casa, lunghi almeno 5 metri in più, 6 metri in più, arrotolati pronti, in modo che non lo faccio a misura, 10 metri in più sopra il tetto, per cui nel caso devo montare qualche altra antenna, cioè che i cavi di scesa pronti, il cazzo ciò devo tornare a aprire e chiudere, no? No, lo faccio definitivo quello, beh, sarà già tutto calcolato. Quando fai queste cose sotto canale, calcolatelo sempre, perlomeno io l'ho fatto sempre per esperienza, non io puoi stare a aprire e chiudere, ti calcoli sempre una discesa in più, due discese in più e te le lasci morte sul tetto, così nel caso ti va di montare qualche altra antenna c'è già i cavi passati, e se no il terzo discorso. Infatti ho speso solo in cavo 500 euro una buccia di gioca, ho preso due matasse da 200 metri proprio per fare le calate giuste, le cose giuste, non stare lì a aprire e chiudere, no, perché ho fatto tutto il foro che è stato fatto a fianco alla finestra, è stato fatto con la come si chiama, con la fresa, è fatto a misura, entrano 15 cavi, non è che ne entra uno, sono col tubo in polietilene e va va siliconato sia dentro che fuori siliconato, ci sono i tappi sia fuori che dentro, è tutto chiuso, non si vede niente. Sono, il tappo interno è bianco, col colore del muro bianco, il tappo esterno è del colore della facciata è grigio. Fatto lavoro, se no non si scherza, fatto lavoro ad hoc, proprio finito del tutto. I cavi che entrano dalla finestra sono canalizzati nella canalettina, quella bianca da 6, dove entrano dentro i cavi uno per uno e poi sono chiusi ermeticamente. E la canala rimane sotto la battuta del marmo della finestra, no? Ci mette la testa per non li vedere, no, caricavi, no? Quindi è venuto il turno, dice, ma fammi colpire, ma i cavi di soldato, dentro della mezzo, no? Ce ne cavi qua in mezzo ai piedi. Non c'è niente, nulla, non si vede niente. L'unica cosa che vedi alla fine del tavolo dove io sto trasmettendo è il commutatore che rimane, chiaramente, capire il commutatore l'antenne ci vede, con gli attacchi che partono per tutte le radio. È una cosa bella da vedere, perché giusto che devi vedere da lì, c'è il commutatore rotto. No, un commutatore della Intec, no. C'è un Rolex di quelle della che mi hanno fatto la vita Marco Scorpio, di quelli professionali, 8, con addirittura lo staccantenne sotto condensatore di quelli per le scariche elettrostatiche. Quindi io tutte le volte che non ci sono il commutatore è a zero, cioè il selettore a zero, non commuta nessuna parte in caso di ingresso di fulmini o balle varie. Scarica sul condensatore 2 euro, compri il condensatore che è praticamente all'interno la scatola, è saldato ed ecco lì che il problema è risolto. Se non ti brucia niente, non hai nessun problema. C'è il salvavita sotto dove c'è la presa, ci sono due prese, uno a inizio tavolo e uno a fine tavolo di lavoro, dove c'è un unico ingresso degli alimentatori con le salvavita. Come lavoro fatto, invece, quando vieni qua lo vedi e poi mi dici veramente ad hoc, tu hai detto mai in Gavin di ciò, dritto lo da mezzo, sì. No, dove sono io qua? Dove mi nomino adesso, perché i cavi non passano più in facciata, ma c'è direttamente nel terrazzino, dal tetto scendo direttamente dentro a casa, anzi in questo momento entro dentro la finestra, ho sollevato appena il coso e entro dentro la finestra, poi dall'altra parte in camera da letto c'ho i fuori già pronti per far entrare i cavi dentro in camera da letto, volendo c'è la scatola dentro la camera da letto e quindi non si vede nulla. Adesso provvisoriamente c'è un mese palazzino dentro la camera, dentro la camera dove mettiamo a fare le riparazioni, cosa del genere. Ma la camera dentro non vogliamo essere, non mi va. Non devo fare a sventiare meglio una cameretta. E basta, adesso poi in seguito mi compro i mobili nuovi, poi mi metto tutto quanto negli scaffali, ben fatto, lo faccio. Gli faccio vedere l'angolino per fare le riparazioni, un tavolino, una lampada. E boh, non me ne ricordo più di cose come quando ero in Verizzetto, dopo che la moda sai, mamma mia. Siamo più palattini che altro, figurati. Una cosa così non la voglio più fare in casa. Mi sono tranquillo, nessuno mi rompe le palle e sono ordinato anche. No, l'ordine è la prima cosa. Non c'è, io avevo. Sono stato sempre ordinato, non c'è un problema. Questa volta ho fatto le cose più in grande perché finalmente ho la mia strada, dove nessuno mi rompe le palle, quindi non la devo condividere con nessuno, è tutta mia, perciò. Sto facendo le cose fatte bene, bene veramente, fatte e sto continuando a farle. Mi mancano un paio di cartine che sto aspettando perché non le ho trovate, quelle proprio dove ci sono tutte le nazioni scritte, quelle mi servono per quando si magari in collegamento e devi dare il locator. quello è molto importante. Tutto quello che insomma ci vuole, dai. Non stiamo lì a elencare. Una bella, ho fatto una bella stanza. Ho fatto una bella cosa. Lì chiudo e basta, no? Fai le due parate per le due antenne che devo montare, devo montare la verticale, 5 bande e la X300, perché la 510 ce l'ho già, la X50 c'è. La X300 mi serve per il 271, l'ultima radio nuova che ho preso, quella da base della ICOM, che è senza antenna. L'accendo, la tengo accesa, ma è senza antenna, perché le antenne sono tutte occupate. Poi la verticale mi serve per gli altri due HF lo stesso, che sono senza antenna, e basta. Gli altri sono tutti commutabili, quindi 4 ingressi ce li ho già impegnati, devo fare gli altri 4 ingressi e 2 li lascio liberi, le altre 2 parate le lascio libere proprio per chiudere, per consentire la chiusura della canala. In caso, come hai detto, tu dici, ma si deve piazzare un'altra antenna, sì, piazzare un'altra antenna, le calate ce le ho già pronte, non sto mica a riaprire, le fai in più e te le tiri così. Le arrotolo sul tetto, lascio arrotolate e dentro qua arrotolate, dietro la cassettiera la metto, non si vedono, quando mi servono le tiro fuori, le faccio a misura, taglio, PL e si allende. E vai che ce n'è, capito Antonè? Tutto lì. E basta. Noi, cazzo mi ricordo la mansarda di Arizzido, se fosse stata più in ordine era molto bella, era molto bella. Ma io quando ero su, sempre qua, nell'altro appartamento che era più piccolo, cazzo avevo risalto in 2 metri di una risoia che c'era in 2 metri dietro una porta che c'era l'armadio a muro, ho fatto un piano con tutti poi gli scompartimenti e le cose, era uscita una cosa bellissima, solo che non eri a livello di qua, questa è una stanza, quella era un angolo proprio creato così a misura, ma che comunque mi consentiva di lavorare tranquillamente senza nessun problema. Mentre qua sei già in una stanza, sto pensando addirittura, solo un pensiero, non quest'anno perché ho speso una barca di soldi per altre cose, ma il prossimo anno di insonorizzarla addirittura, di farle una tamponatura in leggera in cartongesso col poliuretano espanso all'interno, la parete, insomma, la parete è quella che dà la camera da letto mia, quella che dà la camera da letto di mia figlia, in modo che nel caso voi trattenete la notte d'inverno, magari sai, qua c'è il riscaldamento e quindi va bene, o fare qualche altra cosa, non rompere palle a nessuno. Come si può fare anche polistirolo per questo? Costa anche poco. Prendi fuori il polistirolo, un pulito prendo, che sembra un muro normale, non si vede nulla. E di un isolato. L'ho visto Bartomi, Antonello, l'ho visto fare così, ma non. Io faccio le due pareti direttamente nel cartongesso, 5 cm staccate dal muro, si perderò 5 una parte e 5 l'altra, ma è abbastanza larga questa stanza, è più di 6 metri, ma tanto 6 metri per quasi per 4, per 3,50, quindi non c'è problema, e lo stacco dal muro e faccio una cosa già fatta per sempre, capito? Non uscire in collaggio e niente, metto le guide a terra, la guida sopra, la freccata un gesso, si stucca direttamente, si vernicia, puoi verniciare di qualsiasi colore, capito? Vabbè, questa è bianca, bianca rimane, quindi non c'è problema, vediamo, anche questo è un progettino che ci ho in mente, ma ne parliamo. prossimo anno, quest'anno va bene così. Ho fatto anche troppo, ma tanto, tanto, tanto, eh. Ok. Vabbè, Antonè, sono 11 anche per me, domani la sveglia è alle 6, alle 6 e mezza devo uscire, perciò ti saluto, un abbraccio grande, grazie anche a te della compagnia, quando vuoi noi siamo qua. Si parla di tutto, si dice di tutto qui, non abbiamo problemi. E il telefono mi associerai, il tuo ce l'ho, ci sentiamo Antonè, spero al più presto possibile, lasciami liberare da queste rotture di palla che ho, almeno sino a domani, poi possiamo anche vedere sabato cosa fare, vediamo, perché domani è l'ultimo giorno della settimana, c'ho anche tutte le portine da fare, consegnare, se no è un casino. Quindi appena ti chiamo e passo a prenderti, andiamo da Mario e così vediamo se mi recupera con l'antenna. Tanto oggi stavo parlando con Roberto, ma domani di passare che probabilmente c'ha qualcosa anche lui in officina, così vedo di mettere anche la radio e il WFF nella furgonetta. Ok, ciao Antonio, ci sentiamo domani, va bene? Sì, ok, dai, ciao, ci sentiamo, buonanotte, buon qualità, buon tutto domani, ciao, ciao, buonanotte. Ciao Antonio, ciao, buonanotte.